Bentornati e bentornate su Radio ZM, quella che avete appena sentito era la nostra bellissima sigla dei Gorillaz, consigliata dal buon Lore Pica. Questa è Pillole di Ecologia, per questa puntata ai noi non siamo online, cioè non siamo in diretta perché il fottuto coprifuoco ci impedisce di rimanere in radio fino alla fine della puntata e quindi lo stiamo registrando in differita. Sempre qui con me c'è il nostro esperto, Davide. Ciao. Direttamente da Copenaghen. Come stai, Dave? Sto bene, grazie. Tu, Cesa? Come in Italia? Non c'è male nella mia cameretta in solitudine. Adesso hanno messo anche qua delle restrizioni, peraltro. Ah, come sta andando lì la situazione pandemica? Di base, i contagi non sono molti, cioè anche in rapporto alla quantità di gente, però la gente è cioè è molto molto, come si dice, precauzionosa, cauta. Okay. E quindi e quindi boh, sì, ci sono un po' più di restrizioni, quindi tipo la mascherina al supermercato, sui mezzi pubblici, i gruppi da 10 vietati e basta, però di base sta andando bene, sono fortunato. Ok, meglio che qui da noi, evidentemente. Coprifuoco, la guerra. Esatto. No, qui è la guerra più che altro nella retorica del telegiornale, che è il bollettino, tutte queste robe qua. Vabbè, visto che noi anche la volta scorsa abbiamo parlato di cose un po' ansiogene, diciamo, e quindi le conseguenze dei cambiamenti climatici in Lombardia, eccetera, eccetera, ci siamo detti che questa volta avremmo parlato di qualcosa di un po' più leggero, diciamo, sempre ovviamente insomma, a tema ambientale e ecologico, ma un po' più soft, diciamo, un po' più light. E in particolare, l'argomento è una cosa che a me è capitato di sentire, di leggere da qualche parte, e devo dire che mi ha un po' stupito, nel senso che è gli ecosistemi urbani. Ed è questo su cui ti chiedo di delucidarci un po', nel senso che a me ha stupito perché nella mia testa da, insomma, poveraccio che non ne sa quasi niente di ecologia e, diciamo, tematiche ambientali, nella mia testa un ecosistema è un qualcosa di più incontaminato possibile. No, come dire, un habitat naturale, ecco, quindi un qualcosa in cui l'uomo ci mette mano, piede, il meno possibile, diciamo. Invece mi è capitato di sentir parlare, di leggere di ecosistemi urbani. Esatto, perché alla fine la natura trova un modo di infilarsi in qualsiasi pertugio. Ok. Nel senso, alla fine ti ritrovi ragni in camera, ti ritrovi. Cioè, ci sono gli acari su ogni superficie dell'universo, quindi la natura c'è sempre, benché si costruiscano muri e ce ne siamo distanziati per così tanto tempo, la natura Okay. torna sempre. Ok, ma quindi in buona sostanza c'è, diciamo, chiamiamola sinergia tra appunto un ambiente il più umanizzato possibile, cioè che possiamo pensare che è una città come potrebbe essere Milano, e diciamo degli esseri viventi, animali e Esatto. vegetali che esistono, diciamo, in sinergia con gli umani. Sì, cioè, nel senso, una cosa che è interessante è che appunto le città, gli ecosistemi urbani non sono del tutto micidiali per gli animali. Ok, magari un cervo fa fatica in piazza Duomo, Certo, in via però Dante. ci sono tutto un insieme di animali che invece ci stanno bene nelle città. E per esempio abbiamo i piccioni, i topi, un bel po' Ok. di insetti, le zanzare, le cornacchie, ma poi anche specie più simpatiche come gli scoiattoli che adesso ci sono a Milano abbastanza diffusi, i ricci, i porcospini, le civette. A Milano ci sono le civette nei parchi cittadini, è una cosa che se ne stanno ben nascoste non ce ne sono tante, però ci sono. Sì, c'è proprio di fianco a ZAM, al Parco Ticinello, c'è una bella colonia di civette che, diciamo, abitano tutte i casolari, le cascine abbandonate, e ce ne sono un bel po' lì. Eh sì, poi esatto, nel senso, ambienti abbandonati sono il massimo perché offrono riparo e nel senso sono come delle case per questi animali che ci stanno ben comodi, ci sono le piccionaie, appunto le civette, i gufi che stanno dentro le case, i ghiri, nei luoghi più di campagna ci sono i ghiri nelle case, Certo. i pipistrelli. È pieno di animali che riescono in qualche modo a trovarsi il loro spazio nelle città. Ma senti, tu prima parlavi di piccioni, di topi, cioè mi viene da dire, i piccioni ce ne sono talmente tanti che voglio dire, non è che ce ne sono così tanti perché siamo in città, non è che ci sono un po' ovunque i piccioni, cioè una di quelle specie endemiche che vivono ovunque. Invece no, cioè se tu esci da una città, se tu vai in un bosco, i piccioni non li trovi. Cioè, puoi trovare i colombacci, che sono un po' simili, ma un po' diversi, ma le colonie dei piccioni nostri, quelli delle città, quelli brutti, quelli belli a modo loro, dai. Certo. Ogni scarafone è bello a mamma sua. Quelli lì non si trovano quasi in natura, perché sono una specie che si è specializzata per vivere nelle scogliere, nelle scarpate verticali, dove fanno il nido sul ciglio di questi burroni o in piccoli anfratti che ci sono nei burroni, in modo da essere protetti, non so, dalle volpi che sennò entrerebbero nel nido e se li mangerebbero. E i piccioni hanno trovato un ambiente favorevole nelle città, dove sono abituati a scarpate verticali e qualsiasi palazzo per loro non è altro che una scarpata verticale piena di piccoli anfratti dove possono mettersi come i davanzali. E quindi è interessante che una specie, appunto, che in natura non sarebbe stata così comune, magari sulle scogliere, sul mare o su torrioni di roccia verticali, ok, si potrebbero trovare, ma non nel bosco, non nei prati, non sono una roba così comune. E poi mi immagino non così numerosi. Esatto, non in colonie così spropositate. Invece sono, in primo luogo, ho recentemente scoperto che sono particolarmente intelligenti. Uno direbbe, minchia, i piccioni sono tra gli uccelli più scemi, invece no. E hanno anche una vista eccezionale e sono pieni di risorse, se la cavano un po' ovunque. Ed è interessante perché quando hai un numero così grosso di animali, quel numero permette l'esistenza di qualcosa che se li mangi, quindi di un predatore. Ah, ok. A Milano ce n'è di cose che predano i piccioni. Certo, ci sono, non so, quelli, no, stavo per dire una cosa brutta, stavo per dire quelli che ti vendono gli ombrelli e ti fanno le foto strane in centro. Però no, evidentemente no. Chi è che sono i predatori? Sono i gatti delle persone, i gatti. Ogni tanto capita di vedere, cioè è uno scenario un po' macabro, ma capita di vedere tipo le clavicole e le ossa delle ali e due ali attaccate con un po' di piume sparse. Cioè di un piccione che è stato mangiato, quello sono i gatti. Okay. Però la cosa più interessante sono i falchi, perché nelle città, cioè esatto, l'altro animale che è tipico e che sta molto bene in posti con pareti verticali è il falco pellegrino. Ok, di cui abbiamo anche una simpatica famigliola sul Pirellone. Esattamente. E c'è la Buzzi, che è una nostra cara amica di ZAM e del Lab, che è una grande appassionata. E ogni tanto va a vedersi la videocamera che li riprende 24 ore su 24. Esatto. E appunto questi falchi pellegrini si gettano in verticale, in picchiata dai palazzi, e steccano a mezz'aria un piccione e poi se lo mangiano. E quindi è interessante perché i falchi pellegrini in natura non sono particolarmente a rischio, fammelo cercare un attimo, però trovano nelle città un ambiente favorevole. A loro favorevole, ma quanto sono, io non penso di averne mai visto uno dal vivo di falco pellegrino, quanto sono grandi? Sono piccoli, adesso vediamo, hanno la lunghezza del corpo che va da 34 a 58 centimetri. Wikipedia di una precisione. L'apertura alare, minchia, di 74 fino a 120 centimetri. Beh, quindi, piccoli, ma non piccolissimi. No, forse una bella perché sono diffusi in tutto il mondo, con tante sottospecie, quindi magari sono delle sottospecie che sono tipo, non so, la sottospecie africana che mangia i babbuini. Probabilmente un po' più grande di quella che mangia i babbuini. Ci sta. Però in Italia, vediamo un po', magari c'è la pagina. Non c'è la pagina italiana del falco pellegrino. Brutta storia. Ah no, c'è. Ok. Vabbè, quindi sono dei predatori cittadini. E invece i topi, i ratti, è più o meno come i piccioni, che in natura sarebbero molti di meno e con noi proliferano? I ratti, dunque, ci sono. Il fatto è che uno dice topi, ma di topi ce ne sono numerose specie. Ci sono i topolini di campagna, nei quali ci sono numerose specie anche di quelli, cioè già nel sottoinsieme dei topolini di campagna, sono piccolini e starebbero nelle zone di prato. Così. Ok. Poi ci sono i topi più di bosco, che se vai nella foresta capita di vedere ogni tanto, che saltano da un tronco all'altro e normalmente si nasconderebbero nei tronchi caduti, marcescenti, scaverebbero il loro tunnel. I topi che invece ci sono in città sono i ratti, e sinceramente non ho idea da dove vengano fuori i ratti. Sembra che il nome scientifico sia tipo Rattus norvegicus, che è il ratto norvegese. Ok. E quindi magari vengono dalla Norvegia. Ratti. Boh. E quindi anche quelli sono un po'... I ratti, la cosa interessante dei topi è che vengono molto associati con le malattie e lo sporco. In effetti cagano un po' in giro ed è molto... Ok. La loro cacca non fa bene assolutamente. Però di per sé l'animale di suo non è sporco, a meno che non venga fuori dalla fogna. Sì, infatti così su due piedi, non so, i ratti delle fognature, non so, quelli che a New York quando piove molto e c'è l'uragano salgono e ti escono dal cesso dei primi piani di grattacieli, non mi danno l'idea di essere proprio, insomma, pulitissimi. Però se fosse, diciamo che se fosse per loro, loro sarebbero puliti, e soprattutto perché vivono, appunto, vivendo in colonie così grosse, ci hanno grossi problemi di epidemie, anche i ratti come noi. Siamo molto simili per questo, che anche noi umani viviamo in colonie numerosissime e quindi quando c'è un'epidemia si sparge molto. I ratti hanno lo stesso problema. E quindi anche per loro l'igiene ha una certa importanza. Ok. E nei limiti di quello che è possibile quando vivi nelle fogne. Cioè, ovviamente, anche loro... Però sono animali interessanti, molte persone li tengono come animali domestici e sono dei buoni animali domestici, e sono estremamente intelligenti, hanno un olfatto eccezionale, infatti vengono usati per trovare le mine antiuomo. Ah, che storia. E comunque anche loro, appunto, visto che la città è un posto pieno di risorse per un animale, perché è pieno di spazzatura, i ratti ci stanno benone. Gran bene. A Milano Sud, che è una parte, diciamo, della città particolarmente umida, con canali, il Lambro Meridionale, i Navigli, eccetera, eccetera, c'è un... non so se sono parenti stretti dei ratti e delle pantegane, ma ci sono un sacco di nutrie. Le nutrie, sì. Le nutrie sono, per chi non lo sapesse, sono dei roditori giganteschi provenienti dal Sud America, che erano stati portati in Italia per la pelliccia, ma che poi sono scappati, sono stati liberati dagli allevamenti e si sono stabiliti nell'ambiente della pianura padana, che a loro è molto favorevole perché gli piacciono le zone di acqua. Sono come dei castori con la coda da topo. Ok, che non fanno le dighe. Esatto. Le nutrie, no, le nutrie sono un problema, a dire il vero, perché c'è un problema che praticamente la pianura padana ha un ottimo sistema di agricoltura, perché è estremamente, c'è questa rete di piccoli canali tra i campi che permettono di regolare l'irrigazione. E le nutrie fottono tutto quando arrivano. Cioè, nel senso che si mangiano... Perché scavano delle tane gigantesche e quindi scavano questi tunnel che cambiano completamente tutte le direzioni dei flussi d'acqua e dissestano molto la zona. Okay. E in più mangiano tutta la vegetazione, cioè molta della vegetazione ripariale, che si chiama il nome della vegetazione che sta sulla riva dei fiumi, che insomma, anche quello è un danno in un certo senso. Certo. E però appunto le nutrie, loro si fanno i cazzi loro, nel senso, se noi che ce le abbiamo messe, e adesso penso che il loro numero sia abbastanza grosso da non essere in alcun modo arginabile l'invasione delle nutrie, diciamo. So che i lupi e gli sciacalli se le mangiano, e con l'aumentare del numero di lupi e sciacalli magari verrà un po' regolata la popolazione di nutrie, ma comunque sono qui per restare. Ah sì. Comunque questo collega all'argomento delle specie aliene, perché per una specie aliena, ovvero una specie che non è nativa di un certo posto, okay. Cioè, ad esempio, la nutria è una specie aliena perché viene dal Sud America, giusto? Esatto. Cioè, originaria del Sud America. Okay. Esatto. Una specie aliena non è necessariamente invasiva. Una specie si viene detta invasiva quando crea problemi, crea danni. Danni, okay, sia alle persone, cioè sia alla società, diciamo, come appunto i danni agli agricoltori, sia danni alla biodiversità. Però ci sono specie che si dicono naturalizzate perché si trovano la loro nicchia che non era occupata da nessuno e sono lì a farsi i cazzi loro senza creare problemi. Vabbè, ma a parte questo, ci sono il problema per una specie aliena è che è pieno di predatori e non ci sono risorse a cui siano abituate a mangiare, no? Ok. E se pensi a una specie tropicale, come un pappagallo, non ha gli alberi di mango certo, da cui mangiare tutto l'anno. E invece però nelle città, proprio per l'abbondanza di specie ornamentali, quindi di alberi che non sono nativi del posto, ma che vengono piantati perché sono belli, queste specie possono trovare un sacco di cibo. E infatti, e per lo più sono protette dai predatori, perché nelle città appunto non è che ci siano i coyote o i lupi o... Certo. Meno male anche, perché sì, sarebbero sbattimenti. Che se vai al parchetto e ci sono i lupi. E quindi alcune specie ci si trovano bene e riescono ad esistere in posti come l'Europa proprio grazie alle città. E l'esempio sono i pappagalli. Sono i pappagallini verdi. Sì, anche davanti a Zam per un periodo hanno girovagato questi pappagallini. Loro, i pappagalli appunto non c'erano in Europa, poi sono scappati dalle gabbie delle persone che li tenevano, e mi sembra che l'invasione europea da parte dei pappagalli sia iniziata a Barcellona. Sì, lo sapevo anch'io, in Spagna. Sì, e lì appunto fa caldo, quindi si trovano bene, è pieno di alberi da frutto di base nelle città, che siano le palme, che siano... sì, comunque... con le bacche. Sono un sacco di ciliegi anche a Milano. E loro fanno vivere. I pappagalli che c'erano intorno a Zam, loro malgrado, si mangiavano i semi di girasole che avevamo piantato per fare fitodepurazione, quindi in realtà non gli ha fatto benissimo, però... È il ciclo della natura. Però insomma, è così. Senti Dave, io ti direi questa cosa. La volta scorsa ho scelto io le canzoni che abbiamo ascoltato durante la puntata. Questa volta è il tuo turno. Esatto. E so che ti sei pensato delle chicche niente male. Esatto. Il pubblico deciderà se sono niente male o meno. Certo. La prima, più easy, è Concrete Jungle di Bob Marley. Ok, quindi ce l'ascoltiamo e torniamo subito dopo, sempre qui su Radio ZM, sempre a pillole di ecologia. Rieccoci qui a Pillole di Ecologia. Intanto vorrei ricordare agli ascoltatori e alle ascoltatrici che tutte le puntate di tutti i programmi di Radio ZM hanno dei fantastici podcast che potete trovare sul sito di ZAM. E inoltre c'è un canale Telegram della Radio di ZAM, Radio ZM, dove mandiamo tutte le info sulla programmazione della settimana e giornaliera, e c'è anche una chat della radio di ZAM dove potete scrivere a chi conduce i programmi quando ovviamente sono fatti in diretta. Per chi si fosse sintonizzato ora, ricordiamo che noi a causa del coprifuoco lo stiamo registrando e quindi siamo ognuno nella sua cameretta. Il tema di oggi è gli ecosistemi urbani e appunto si diceva che insomma inaspettatamente, ma nelle città ci sono dei veri e propri ecosistemi e degli animali che anzi beneficiano della presenza dell'uomo e di un ambiente cittadino per vivere e sopravvivere. Interessantissimi. Quindi io avrei una domanda da farti, nel senso che va bene, abbiamo parlato di ecosistemi urbani, però non sono, diciamo, omogenee e uniformi, cioè non sono uguali dappertutto le città. Anche all'interno di una stessa città, come potrebbe essere Milano, passare dal centro a una zona come potrebbe essere Stadera Chiesa Rossa, che è molto verde, o a un'altra zona come potrebbe essere un'altra zona periferica, cambia molto. Cambia molto, sì. Sì, esatto, perché alla fine la natura dipende dagli ambienti che sono disponibili. Quindi, se volessimo pensare di fare un viaggio nella natura urbana dal centro verso la periferia... Ok. Troveremmo... Mi piace molto il tuo stile narrativo, Dave, devo dirlo. Sto cercando di ispirarmi a Alberto Angela. Bravo. Sto anche gesticolando, ma non si vede. Certo. Però percepisco dalla tua voce la tua mascella avvenente. No, sì, praticamente il centro è la zona che secondo me è anche la più difficile da abitare per un animale. Perché, appunto, nelle strade, se pensiamo in Piazza Duomo, appunto, giusto i piccioni che possono volare via e qualche ratto, non c'è molto di più. E quindi nel centro è un po' un deserto. E però in questo deserto, appunto, di cemento, questa concrete jungle, come la chiama Bob Marley, ci sono delle isole molto, molto floride. E questi sono i parchi cittadini, che sono delle bombe di biodiversità nel centro delle città, in quanto permettono appunto a un sacco di animali di vivere certo, al riparo dei predatori, in primo luogo, in ambienti in cui sono anche foraggiati di risorse da tutte le persone che ci passano e che mangiano nel parco, e dove hanno spazio a sufficienza per vivere una vita intera. E quindi, se tu vai a pensare al parco Tempione o i giardini di Porta Venezia, così sono posti che sono pieni di vita, pieni certo, di uccellini, pieni di piante tutte diverse, e quindi che permettono l'esistenza di animali ben diversi. Per esempio ci sono i picchi, ci sono un sacco di picchi nei parchi di Milano, che se tu ti guardi in giro si dovrebbero riuscire a trovare. Un sacco di specie di uccelli che neanche io conosco, però ce ne sono tanti. Ci sono i colibugnoli, i fringuelli, i cardellini, i luì, i merli. Ce ne sono tanti e ciascuno si trova il suo spazio all'interno dei parchi. E quindi è interessante perché certo, appunto il centro quindi lo vediamo un po' come una zona molto ostile alla vita di un animale, perché non ci sono piante da mangiare, c'è solo spazzatura da mangiare o le briciole che ti tirano i turisti, con punteggiato di queste aree verdi che sono come delle oasi dove gli animali possono vivere. E è anche interessante perché si muovono da un'oasi all'altra e quindi c'è anche una comunicazione e delle migrazioni in un certo senso che vanno da un parco all'altro, specialmente da parte dei volatili. Poi, man mano che uno si muove più verso l'esterno, ci sono, beh, per come è fatta Milano, ci sono più parchi nelle zone a metà strada tra il centro e la periferia. E quindi c'è appunto anche più insetti riescono a sopravvivere. Certo. Poi Iniziano ad esserci i parchi con le cicale, per esempio al Parco al Solari ci Safari. sono, ad esempio, le Esatto. cicale. Esatto. Ma senti, ti chiedo una cosa, nella mia totale ignoranza, però una cosa che mi è venuta in mente è che, appunto, spostandoci via dal centro, anche al di là dei parchi, però ad esempio ci sono molte più vie alberate. Cioè, se pensi a, non so, Via Dante, Brera, tutte quelle zone lì, alcune sono alberate. Vabbè, a Brera ci sono anche dei cortili privati di alcune case bellissimi, alcune vie alberate, però insomma, via via che si va fuori è più frequente trovare vie alberate, ma questi alberi che spiccano da un mare di cemento possono essere, cioè contribuire alla vita, cioè, dell'ecosistema urbano oppure sono semplicemente che fanno E ombra? come? Gli alberi alla fine sono una montagna di risorse. Se tu pensi di essere un animale grosso come un dito, come può essere un uccellino, un albero è una montagna di spazio e di risorse se è un albero che fa dei semi di qualche genere. E quindi ci sono un sacco di animali Stavo pensando a Ratman quando dicono che era grande come una pietra. E vabbè, un piccolo divertismo. Grande No, Ratman. sì, nel senso, gli alberi, le vie alberate sono utilissime, anche perché una delle cose più importanti che ci possono essere in natura è che anche l'uomo possa costruire per favorire la natura sono i cosiddetti corridoi ecologici, ovvero delle specie di corridoi che colleghino zone verdi, quelle isole che sono i parchi nella città, se venissero collegate da strade alberate, la cosa favorirebbe un sacco il movimento degli animali da un'isola all'altra e questo aumenta molto la salute della biodiversità in entrambe le isole, se può esserci una più facile comunicazione. Certo. E quindi le vie alberate spaccano. Poi più ci si muove verso la periferia, appunto, proseguendo il nostro viaggio verso la campagna, ci ritroviamo in periferia e anche la periferia è strainteressante perché è un po' una fase di transizione tra la città e la campagna. E quindi c'è cioè, tutto, la periferia è soggetta a questo afflusso di fauna selvatica proveniente dalle zone più aperte, meno abitate, e quindi, come per esempio era successo nel lockdown, può succedere che gli aironi o delle lepri o magari una volpe in qualche modo si ritrovi in città. E questi Guarda, animali. un piccolo aneddoto di una cosa successa durante il lockdown a Milano Sud. Mentre facevamo le consegne dei pacchi alimentari, un giorno abbiamo visto cioè, tantissimi camion dei pompieri, piuttosto che quelli che un tempo era la Guardia Forestale, che adesso è un reparto dei carabinieri, intorno, cioè, insomma, intorno a ZAM. E noi ci siamo un po' presi male perché non capivamo cosa stesse succedendo. E poi siamo andati a chiedere e c'era un capriolo dentro il naviglio che deve essere caduto chissà dove fuori Milano e poi la corrente l'ha trascinato ed è stato fortunatamente messo in salvo. Comunque sì, è vero, durante il lockdown ci sono stati avvistamenti atipici, diciamo. E poi appunto la cosa infatti può creare il famoso conflitto tra gli uomini e gli animali, perché appunto in queste zone dove fauna selvatica, che non sono appunto gli uccellini oppure i topi che si possono, che vengono uccisi senza alcun rimorso, quando sono animali più, come si dice, più caratteristici e più carismatici, che si ritrovano nella città, diventa più difficile, perché loro sono totalmente fuori posto, nel senso sono estremamente disorientati e impanicati da tutto il rumore che c'è nelle città e ste robe qua, il fatto che non ci siano ripari o, certo, o il cibo che si aspettano e robe così, e dagli umani che non sanno come gestirli, perché appunto è difficile gestire, generalmente difficile gestire un animale selvatico, perché certo. Beh, è di qualche giorno fa la notizia della strage di una famiglia di cinghiali a Roma. Esatto, quella era una situazione abbastanza critica, perché appunto adesso c'è questa cosa a Roma, ma anche a Firenze, mi sembra, in moltissime città in Italia, i cinghiali praticamente con gli anni sono aumentati a dismisura di numero in Italia, e adesso sono molto attratti dall'odore della spazzatura, perché hanno un olfatto eccezionale, e quindi succede che si avventurino nelle città in cerca di spazzatura. E appunto quello che è successo a Roma è che c'era questa famiglia di cinghiali che era arrivata in questo parchetto cittadino, e da settimane mangiavano gli avanzi del mercato rionale, e la gente andava lì a dargli del cibo, e questi animali si erano abituati a ricevere cibo dalle persone. E quello però è una cosa complicata da gestire, perché io sono dell'idea che non si dovrebbe assolutamente dare del cibo agli animali selvatici, perché in primo luogo il cibo che gli dai 9 volte su 10 non dovrebbe essere parte della loro dieta, e quindi finisce per fargli male. Mm. Pensi, dare il pane agli uccelli gli fa star male, gli fa tutti degli scompensi nei nutrienti, per cui le ossa gli diventano troppo fragili, si spaccano, se gli dai il riso scoppiano, perché si gonfia nello stomaco, insomma. Non, o compri il cibo che hai fatto apposta per gli animali e fai in modo che non capiscano che sia un uomo, che gli, una persona che gli stia dando, o non gli dai un cazzo. E appunto il problema è che questi animali poi non possono più essere, perdono la loro caratteristica di essere selvaggi, che in un certo senso è anche preziosa, perché boh, insomma, è il modo in cui sono nati, in cui sono sempre vissuti, e poi finiscono per diventare dipendenti, perché è una dipendenza quella che si forma dal cibo facile, gustoso e ipercalorico che mangiamo noi. E non è che li puoi prendere, addormentare e liberare in un bosco, perché l'unica cosa che cercheranno di fare è cercare nuova spazzatura, e quindi è un po' una condanna. Li condanni a non essere mai più selvatici, a non avere mai più quella romantica libertà dell'animale selvatico, e quindi è un problema. E a monte di tutto, no, cioè insieme a tutto quanto, c'è il problema che rimangono animali non domestici, quindi non sono come l'asinello o il cane che sono stati selezionati per essere docili. Certo. Sono animali che, se uno si comporta nel modo sbagliato e se una persona viene interpretata come una minaccia, come potrebbe essere un bambino che cerca di andare ad accarezzare uno dei cuccioli di mamma cinghiale, mamma cinghiale attacca. Sì, il bambino. Poi succedono le cose, dei problemi, che i lupi sono aggressivi, che gli orsi sono aggressivi, che i cinghiali sono aggressivi, quando invece non è neanche la maggior parte delle volte, è la assoluta totalità delle volte. Il problema era il comportamento della persona che è stata aggredita. Sì, e poi chiaro. Però la cosa però dà la scusa al coglione di turno di dire che i lupi vanno ammazzati tutti, al governatore del Trentino, quell'inetto, però non si può essere politici. Certo, siamo la radio giusta. Quello verme schifoso che di cui non mi ricordo neanche il nome e che non merita di essere ricordato, che fa la guerra agli orsi in Trentino, quando in verità tipo le volte che gli orsi attaccano una persona, tipo una delle ultime volte era stato sto vecchio che girava, un vecchio che gira col bastone nel bosco, vede un orso, che cosa fa? Gli dà una bastonata. Se tu vedi un orso non gli dai una bastonata, e l'orso gli ha dato una zampata, non l'ha neanche ucciso e se n'è andato, e però gli orsi, e quindi c'è tutto questo problema del conflitto tra uomini e animali che diciamo viene esacerbato dal comportamento delle persone e da questa attitudine al pensare che tutti gli animali siano animali domestici, quando non è assolutamente vero. Vabbè, tu dicevi che questa parentesi. No, dicevi che in tante città in Italia ci sono animali anche diciamo di media grossa taglia, selvatici, che si avvicinano alle diciamo alle zone periferiche delle città. Non so se fortunatamente o per sfortuna a Milano non ce ne sono tanti di casi del genere. Però comunque nelle zone, in particolare nel Parco Agricolo Sud, comunque una zona molto in cui diciamo viene tutelata la parte non cementificata del territorio, ce ne sono parecchi di questi animali pseudo selvatici o insomma che abitano queste zone. Vedevo ho visto una foto qualche giorno fa su un gruppo, mi sembra che si chiami Camera Sud Milano, un gruppo Facebook, dove faceva vedere che c'erano delle cicogne in un campo tra Gratosoglio e Rozzano. Bellissimo. Ad esempio. Sì, perché alla fine gli ambienti umani per alcuni animali sono estremamente favorevoli. Cioè, aironi, cicogne, questi uccellazzi qua che hanno il collo lungo, il becco lungo, così, e le zampe lunghe. Ma non le cornabelle. Esatto. Sono tutti animali che in natura camminerebbero negli stagni con l'acqua bassa e pescherebbero le rane, o i pesci o quel che gli capita. E le risaie per loro sono un posto fantastico. Certo, è proprio uno stagno ordinato, diciamo. Esatto, pieno di rane, perché le risaie brulicherebbero di rane, e penso che brulichino di rane comunque. Sì, sì. La rana di fatto è anche un piatto della tradizione milanese, no? Sì, c'è una frazione poco fuori, cioè insomma, esatto. Lungo via dei Missaglia, che si chiama Ronchetto delle Rane. Esatto. Dove si chiama così appunto per la presenza di questo anfibio. Esatto, e appunto questi ambienti quindi sono di fatto favorevoli anche ad uccelli e ad altri animali che sono una bella componente della fauna italiana che ci sta a tutelare, soprattutto le cicogne che sono molto rare, perché è stato un periodo in cui le sparavano tutte ed erano semi-estinte in Europa. Però adesso stanno aumentando di numero velocemente perché quando la gente smette di ammazzarle attivamente. Certo, loro sopravvivono, guarda caso, dirai tu. Il caso vuole che gli piace trombare e che ci sono un sacco di risorse, perché abbiamo ammazzato tutti quelli che si mangiano le risorse e quindi le popolazioni tornano in salute, che è una buona cosa. Certo. Una cosa molto buona. Direi proprio di sì. Prima di passare all'ultima parte della nostra puntata, che diciamo per quella più politica o comunque di diciamo approccio ecologico ambientalista che veda anche come questa attenzione ambientale porti anche a degli effettivi benefici alle comunità, ti direi di introdurre a bomba così la tua seconda selezione musicale. Sì, la seconda selezione musicale è un rapper indiano. Per cui poche persone probabilmente capiranno che cosa dice. Cioè, dipende, numericamente in India magari tante persone. Tra gli ascoltatori di radio e le ascoltatrici di Radio ZM forse pochi effettivamente. Esatto. E lui si chiama Echo Boy e fa questa canzone che si chiama Asli Nature Anthem e rappa riguardo alla natura, presumibilmente. E... certo, chi lo sa, magari senza saperlo stiamo mandando una canzone in cui questo rapper indiano dice che bisognerebbe bruciare tutte le foreste e fare tabula rasa e costruire un sacco di rondò. Chi lo sa? In realtà sto leggendo nella descrizione della canzone, dice che è per diffondere consapevolezza nelle persone riguardo alle conseguenze ambientali in India. Ah, beh, direi che... Le conseguenze quindi dei problemi ambientali in India, tramite questa canzone di... Direi che è perfettamente in linea con lo spirito della trasmissione, ma a questo punto, prima di mandarla, mi viene spontaneo farti una domanda. Come diavolo lo hai trovato? Ho cercato Nature Rap e è venuto fuori. E la magia di YouTube ti ha portato a questo... l'algoritmo che tutto sa. Esatto. Certo. In realtà Nature è anche un rapper che suonava insieme a Nas. Ah, già. Pacca. Però non canta tanto di natura. Ok, quindi hai preferito andare sul versante indiano, indo-asiatico. Esatto, a due oceani di distanza. Va bene, quindi mandiamo la canzone di Echo Boy e ritorniamo subito dopo. Bello. Godiamocela. Thanda hai to bahut thanda, nahi to baki sab garam hi garam. Angar hai angar. राजधानी की कहानी और बाकी तो सुनाओ क्या हेल्थी इमरजेंसी स्टेट पर आया इनको होश ना बैठे उच्च गद्दी पर फर्क ना पड़ता इनसे यकीन तुमको ना पर पीएम बन रहा है सालों से लाख कोशिशें क्या आपका साथ है जागी है उम्मीद मेरी कैसे बुझाऊं मैं काटो दस पेड़ सौ में लगाऊंगा आज भी मौका है करे तो कुछ हो जाएगा दम घुट रहा है इस धरती का इस हालत के लिए हमारा ही हाथ है इको बॉय में तुमको ये कहता हूँ कुदरत की नस में है जहर बस गया घर ये अपना ही सबको ध्यान रखना साथ सबका मिले अगर हाल बदल जाएगा सुन रहे जो मुझको बेशुमार प्यार उनसे कहता सच्चाई में भलाई हम सबके लिए गौर कर लो मेरी बातों पे तुम ध्यान दो जो भी मैंने कहा उससे करके दिखाते है चिल्लाओ जोर से उठाओ अपने हाथ तुम प्रदूषण से बचाए हिंदुस्तान को हिंदुस्तान को हाजी हिंदुस्तान को प्रदूषण से बचाए हिंदुस्तान को हिंदुस्तान को हाजी हिंदुस्तान को प्रदूषण से बचाए हिंदुस्तान को क्या E rieccoci qui, sempre a pillole di ecologia, sempre su Radio ZM, sempre con il nostro esperto Dave. Sulle note di questa meravigliosa canzone di rap indiano, ci siamo messi a chiacchierare un po' a ripensare a quei cinghiali che sono stati giustiziati nella periferia di Roma. Dovete sapere che Dave, nella sua candida, non so, naturalezza, ha parlato di alcuni ambientalisti con i capelli lunghi, un po' fricchettoni, che sono stati intervistati e che hanno parlato di questi cinghiali come, diciamo, che membri della comunità, che è stato sbagliato ucciderli, eccetera, eccetera, come alla fine non facevano niente di male. E non voglio ripetere gli spergiuri e le invettive che Dave ha fatto nei confronti di questi due individui. No, la questione è che quando uno si chiama antispecista non dovrebbe pensare che i cinghiali non siano in grado di cavarsela da soli. Cioè, penso che appunto considerare degli animali come incapaci di gestirsi da soli e che abbiano bisogno dell'aiuto e delle cure e dell'amore degli esseri umani che gli tirano gli avanzi di cibo sia più un'offesa che una forma di rispetto nei confronti di questi animali selvatici. E appunto privarli del buono che hanno nella vita, che è l'essere selvatici, il non dover nutrirsi di spazzatura, sia decisamente contro il loro stesso bene, il bene degli animali selvatici. Certo. E quindi facciano bene a stare zitti questi finti ecologisti e finti antispecisti. Non dare da mangiare agli animali selvatici. Questa è la prima pillola, vera pillola di oggi. No, allora, questa cosa della, diciamo, difficile convivenza tra possibili incursioni di animali selvatici e esseri umani in ambienti cittadini, possiamo dire che è un, come dire, un effetto negativo di un ecosistema urbano ricco. Esatto. Però la realtà qual è? La realtà è proprio il contrario, che più è ricco un ecosistema urbano, più benefici può portare alla popolazione che abita quella città. Sì, che sia ricco delle cose giuste. Certo. Diciamo. E appunto non di animali diabetici perché hanno mangiato troppo pane gettato da un supermercato. Quindi la cosa migliore che ci possa essere in una città è un'abbondanza, una sovrabbondanza di verde, piante, verde pubblico, alberi, cespugli, muschio, tantissimo muschio potrebbe esserci nelle città, invece non c'è, licheni, erba, prati, e tutte queste cose belle. Perché con esse vengono numerosi queste cose che si chiamano servizi ecosistemici. Che è un concetto. In parole, diciamo, semplici anche per i neofiti come me. È un concetto che nacque negli anni 90 con il professor Robert Costanza, che era un tizio australiano che diceva: come faccio a far capire alla gente quanto valga la natura? Ha detto: allora proverò a dare un valore economico ai benefici che la natura dà. E allora si è messo a elencare tutti questi servizi che vengono prestati dalla natura all'uomo in modo assolutamente gratuito, come produrre ossigeno, filtrare l'acqua, impollinare le nostre verdure, tutte queste cose qua, e le ha chiamate servizi ecosistemici. E ha scoperto che, tipo, il valore dei servizi ecosistemici era, non so, 100 volte il prodotto economico del mondo, perché ha detto: quanto costerebbe all'uomo riprodurre queste cose? Quanto costerebbe pagare delle persone perché andassero con un cotton fioc a impollinare ciascun fiore di un melo? Sì, certo. Anzi, di 1000 ettari di meli. Una cosa che le api invece fanno gratis, producendo miele, come così, mentre lo fanno. Certo. Quindi Questo è il concetto di servizio ecosistemico, quindi un beneficio che ci viene dato gratuitamente dall'avere natura accanto a te. Sì, diciamo che noi che ci piace andare un po' oltre ai benefici puramente economici, possiamo dire che comunque cioè questi benefici ecosistemici contribuiscono molto al benessere fisico, psicologico e sociale delle persone. Esatto, cioè il concetto è nato per farlo capire a quegli gnucconi delle banche, dei banchieri e di quelli che fanno girare i soldi, sperando che ne girassero un po' verso cose di natura, anche ai governi. Però noi, persone normali, li viviamo sulla nostra pelle questi benefici, cioè noi siamo quelli che ne beneficiano davvero. Perché le piante in una città hanno un sacco di punti, di aspetti utili. In primo luogo, cioè, si potrebbe fare un elenco, però si possono anche parlare uno per volta. Certo. No, tra l'altro, io ho qui sotto mano un libro che si chiama Amico Albero, che è scritto da due docenti universitari, qui vedo. Uno è il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari dell'Università di Firenze e un altro dell'Università di Milano. E che appunto, Amico Albero, ruoli e benefici del verde nelle nostre città. E qui effettivamente, come dici tu, fanno proprio un elenco dei vari benefici che la presenza di alberi e di verde urbano produce agli abitanti di una città. Che coincidenza che l'avessi proprio sotto mano. Vero? Pazzesco. Passava di qui. Ma sai com'è la vita. Certo. e quindi, sì. No, diciamo, ovviamente è uno tra i contributi che abbiamo scelto di utilizzare per prepararci questa puntata. Però effettivamente è interessante come ci siano davvero un sacco di benefici anche più insospettabili. Sì, e questo è il fatto che uno non ci pensa neanche, li dà per scontato. Però se non ci fossero le cose non sarebbero uguali. Per esempio, quando d'estate c'è un caldo terribile, soprattutto con il cambiamento climatico, non è bellissimo sdraiarsi sotto un albero, all'ombra dell'albero? Sì. Meraviglioso. Quindi questo è uno dei benefici che danno gli alberi, che in realtà ha molto più della semplice ombra che c'è dietro a questo beneficio, perché un albero nel suo processo di fare fotosintesi rilascia nell'aria un sacco di acqua sotto forma di vapore acqueo e goccioline, e questo è praticamente una specie di finissima e lieve nebulizzazione che rinfresca molto l'aria circostante. Soprattutto perché l'albero risucchia quest'acqua da sottoterra e quindi l'aggiunge all'atmosfera rinfrescando, oltre a fare ombra. Certo. Quindi questa è una delle cose più banali, ma anche più utili. Alla fine, cioè, se non ci fosse nessun parco dove andare in giro in città, sarebbe difficile girare d'estate a Milano. Certo, già, diciamo, non è facile, soprattutto per le persone anziane nelle ore più calde della giornata, si sconsiglia molto di uscire di casa. No, comunque effettivamente sì, quello della temperatura e della frescura che producono è uno degli indubbi benefici. Esatto. Della presenza di tanti alberi. Tra l'altro, in questo libro, gradi, no? Sì. Sì, dice che diciamo una strada totalmente priva di alberi rispetto a una strada dove c'è un'alberatura abbastanza fitta. Ci sono anche, cioè, nel momento in cui il sole picchia direttamente, ci sono tantissimi gradi di differenza tra una strada ben alberata e una strada completamente priva di alberi. O 100. Beh sì, 100 gradi Fahrenheit. No, non ho idea di quanto siano 100 gradi Fahrenheit. Ah, saranno magari 4-5 gradi di differenza anche. Che, cioè, la differenza tra 35 e 40 gradi è, è significativa. Eh sì, decisamente. E tra l'altro uno di questi benefici che sinceramente a me non era mai venuto in mente è che più una zona è ricca di alberi, cioè più tempo dura la cementificazione di quella zona. Cioè qui dice che una strada alberata ha bisogno di meno manutenzione del manto stradale, del cemento, rispetto a una strada non alberata. Questo perché appunto lo sbalzo termico fa crepare il cemento, e poi quando piove queste crepe si ingrossano e via dicendo. E quindi che, diciamo, delle strade molto alberate paradossalmente proteggono il cemento. Esatto, perché riducono gli sbalzi di temperatura, che sono quelli che fanno crepare il cemento, e fermano la pioggia battente, prevenendo l'erosione, che è uno dei benefici che hanno gli alberi invece nelle foreste, nei versanti, e quindi non vengono erosi questi buchi nell'asfalto, e di fatto la strada viene protetta, ci sta. Sì, non è male. E poi vabbè, ovviamente dice stoccaggio di CO2 che tra i benefici, che vabbè, questo è abbastanza ovvio. L'aria, puliscono l'aria, fermano tutto lo smog, il particolato prodotto dalle auto viene intrappolato dagli alberi. Per esempio, i platani, che sono quegli alberi che fanno, che hanno quella corteccia che nei parchi è bella chiara, sì, a scorze, se vengono piantati lungo una strada, quella corteccia assorbe un sacco di smog e diventa nera e poi si stacca, e così viene praticamente intrappolato lo smog e preso su dai camion dell'AMSA, e poi l'albero produrrà nuova corteccia in continuazione, quindi sono come delle spugne per lo smog. Che storia! Quindi rispetto per i platani. Sì. Che sono gli alberi che mi sembra ci siano in via Giambellino. Sì, ma in effetti in tantissime vie ci sono. Non so se perché sono particolarmente resistenti a un terreno di merda come è quello di una città. Onestamente non sì, però appunto tutti quegli alberi che volevano tagliare per la metro nuova, sì, ne hanno tagliati tanti, erano platani. Ok. Quindi hanno fatto un doppio danno. Non solo hanno tagliato gli alberi, ma hanno tolto queste spugne per lo smog, o comunque ne hanno tolto un bel po', non so poi quante ne abbiamo tagliate. Questa sarebbe una cosa da approfondire. Sì. Com'è finita quella storia? Sì, ecco, tra l'altro qui ovviamente, diciamo, va anche nel dettaglio di tecnicismi, però al di là del catturare il particolato atmosferico, dice che ovviamente a seconda della dimensione dell'albero riesce a catturare più o meno CO2 all'anno. Quindi ad esempio dice che gli alberi piccoli in un anno catturano dai 4 ai 16 kg di CO2. Un albero grande invece fino a 360 kg all'anno. Minchia. Quindi anche quando si dice gli alberi che vengono tagliati saranno ripiantati, sì, ok, però un alberello appena ripiantato intanto deve sopravvivere, perché capita spesso di vedere che muoiono. Ma poi comunque per tornare catturare CO2 in quantità come l'albero che era stato tagliato ci vogliono decenni. Poi un albero grosso è anche più bello di uno stuzzichino con il suo cespuglietto. Insomma, non è niente di che. Sì. E oltretutto, un albero molto più grosso ha un beneficio molto maggiore per la biodiversità, perché in ogni cavità che c'è in un albero, in ogni pertugio, così, ci si fanno a nascondere gli animali. Certo. Cioè, se nei parchi di Milano ci fossero solo gli alberellini striminziti, non ci sarebbero gli scoiattoli, i picchi o le civette. Sì, certo, ci sarebbero. Di quegli animali in città dipende dalla presenza di alberi di dimensioni più importanti. Certo. E comunque adesso sto riguardandomi un po' la parte insomma, della cattura del particolato atmosferico. E qui parla anche dei diversi tipi di alberi che sono più o meno in grado di catturare questo particolato atmosferico, quindi il PM2,5, PM10, e dice che il criterio è la densità della chioma, e in particolare l'indice di area fogliare. E quindi a seconda di come sono le foglie e delle scalanature che hanno, sono in grado di catturarne di più o di meno. E tra tutte le stime che hanno fatto, si vede che le specie sempreverdi, e in particolar modo quelle tipiche del Mediterraneo, sono quelle che le catturano di più. Beh, intanto perché d'inverno quelli che perdono le foglie smettono di catturarlo in gran parte, invece questi le catturano sempre. E poi perché si vede che hanno questa dimensione delle foglie. Quindi i pini ombrello, i vari altri pini mediterranei. Sì, poi mi immagino anche tipo, non so, gli oleandri, piuttosto che queste piante qui sempre verdi. Beh, quindi adesso di benefici abbiamo detto la diminuzione della temperatura, L'uso per le persone. l'uso delle persone, che quindi ci si può piazzare sotto quando fa caldo, all'ombra, piuttosto che, insomma, è piacevole anche stare nel verde piuttosto che stare circondati da In un cemento. parcheggio, se Sì. piazzeresti in un parchetto o in un parcheggio, cioè già solo questo. Certo. Poi vabbè, già prima nei primi due intervalli della trasmissione abbiamo parlato di l'indubbio beneficio di aumentare la biodiversità e quindi arricchire l'ecosistema urbano, riduce l'inquinamento atmosferico, La spesa pubblica per la manutenzione delle strade. sì, e dall'altra parte avere tanto verde vuol dire anche necessità di tanta manutenzione Esatto. e quindi posti di lavoro per persone che gestiscano questo verde pubblico. E poi ci sono un sacco di studi di come il verde faccia bene psicologicamente alle persone, aiuti per la depressione, queste robe qua. Sì, addirittura in questo libro si dice che una persona è più portata a fare sport in presenza di verde. E quindi qui vabbè, forse fanno un po' un volo pindarico, però noi lo prendiamo per buono perché questi due ci hanno scritto un libro, quindi fidiamoci. Dicono che l'aumento di attività fisica riduca una serie di problematiche fisiche, come può essere disturbi cardiovascolari, disturbi legati al peso e via Beh, sì, dicendo. quando uno fa sport è in salute più di una persona che non fa sport, Sì. sicuro. Quindi vabbè, diciamo che la presenza di alberi in Ci città, salva il culo. dà una buona dose di benefici alle persone che abitano quella città. Questo è indubbio. Esatto. Niente, questo direi che per oggi può essere tutto. Intanto ti ringrazio di nuovo per il tuo fondamentale contributo. No, ma è un piacere, poi è anche divertente chiacchierare così. E anzi, appunto, grazie di invitarmi ogni volta. Mi Tu sento sarai onorato. ufficialmente il nostro Alberto Angela, della radio. No, invece, Da oggi in poi. dalla prossima volta potrebbe aggiungersi alla conversazione un altro nostro amico, Lorenzo. Un altro esperto, ai più conosciuti come Beppo o il Gringo. Esatto, Beppo, altresì conosciuto come il Gringo, che adesso abita non più in Italia, bensì in Australia, quindi che più lontano non si può, e se avrà la forza di alzarsi alle 6 del mattino per essere in diretta alle 9 di sera insieme a noi, potrà raccontarci molte cose molto interessanti della natura in Australia. Sì, e anche diciamo del rapporto tra l'uomo e la natura in Australia, che è evidentemente un rapporto diverso da l'uomo e la natura in Europa. Esatto. In generale. Sarà interessante fare questi confronti tra l'Italia e l'Australia. Sì. Quindi noi ci diamo appuntamento, anzi vi diamo appuntamento all'ultimo mercoledì del prossimo mese, che calendario alla mano cade di 25. Quindi esattamente il giorno dopo del mese di coprifuoco. Quindi adesso, senza mettere le mani avanti troppo, perché potremmo invece essere piombati in un scintillante nuovo lockdown qua in Italia, però se le cose dovessero rimanere così, il 24 finirà il lockdown, il coprifuoco. Quindi potrebbe essere che torneremo in diretta. Top. E farò da robottino della radio per permettere a questo punto ai due esperti, speriamo, di deliziarci con la loro conoscenza, a noi poveri ignoranti. Tu ti eri preparato un'altra canzone, giusto? Sì, perché un amico mi ha consigliato questo artista che ha fatto delle canzoni registrando per tipo 10 anni i versi i canti di tutti gli uccelli in pericolo di estinzione che vivevano nella sua zona. E alcune di queste tracce sono più sembrano più delle sveglie per svegliarsi la mattina. Ok. Quindi potrebbero andare bene per Beppo quando dovrà svegliarsi per venire alla nostra trasmissione. Esatto. Ma non tanto per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Però potrebbero funzionare, sto pensando che potrebbero funzionare come sottofondo musicale per le nostre conversazioni. E comunque ce n'è qualcuna che non è solo un insieme, una cozzaglia di versi, ma sono messe a ritmo e potrebbero, magari a qualcuno piace. Chissà. Bene, quindi ci ascoltiamo questa. Questa si chiama Owl Song, quindi canzone del gufo di Cosmo Sheldrake. Ok, quindi ci ascoltiamo la canzone del gufo e subito dopo Greta Thunberg di Marrakesh, che ormai è diventata la nostra il nostro outro della puntata. E niente. Ricordiamo che su Radio ZM c'è musica ininterrottamente 24 ore su 24, intervallata dai vari programmi che ci sono. Ricordiamo che da quando c'è il coprifuoco abbiamo organizzato delle notti bianche in radio, il sabato notte, per cui ci sarà conversazioni a cazzo di cane, per citare Boris, che durano tutta la notte, approfondimenti. E niente, per tenere compagnia agli sfortunati e alle sfortunate rinchiuse in casa per il coprifuoco, Radio ZM ha organizzato queste cose. Il tutto senza pubblicità, con diciamo totale libertà di espressione, di pensiero, di dire qualsiasi cosa che sia antifascista, antisessista, antispecista a questo punto, alla facciaccia dei finti ambientalisti che coccolano i cinghiali nei parchi, antirazzista e via dicendo. E niente, quindi intanto buona serata, godetevi le due canzoni che vi mandiamo e poi la mirabolante selezione musicale di Radio ZM. Yeah. Un saluto. Bella raga. Ciao. Thank you.